La fila alla posta, la fila alla banca, la figa mi manca e dagli anni 90 mia moglie non me la dà più, mia moglie non me la dà più. È sempre provincia, è sempre gli avanzi, da sempre la mancia se avanza. È briciole per i virtuosi, applausi per i talentuosi. E vince chi scappa e vince chi stoppa, la storia ci insegna, vince chi ha la gobba. Vincere, ma se di vincere non ti importa, vana guerra vana, vana gloria vana, c'è rimasta solo la noia, la noia. E non ho detto gioia, gioia. Vana guerra vana, vana gloria vana, ci hanno tolto pure la naia, la naia. E quel piacere un po' uomo di passarsi la stecca. Bip, oh, bip, oh, bip, oh, bip, oh. Vivo un conflitto sociale orizzontale, odio quelli come me, cioè i morti di fame. Caffè zuccherato, non guardi da ste parti, soltanto aspartame. Difatti poi il falso è meglio del vero, tipo è sempre meglio un paese straniero. I fatti, le azioni e poi i fatti, che fine hanno fatto? Le emozioni se non si avvicinano al pensiero, smerdare un bambino al secondo perché. Se tu ti fai i cazzi tuoi, campi cent'anni anche te. Papà, perché dovrei campare cent'anni senza un perché? Vana guerra vana, vana gloria vana, c'è rimasta solo la noia, la noia. E non ho detto gioia, gioia. Vana guerra vana, vana gloria vana, ci hanno tolto pure la naia, la naia. E quel piacere un po' uomo di passarsi la stecca. Devi spaccare un mattone in faccia alla gente. Il mattone, la crisi del mattone, il muro in perenne costruzione. Dall'altra parte della città vedo solo le antenne. Gli altri visti da qua, lo sai, mi fanno paura. La noia è un sentimento nobile, non tutti là sanno riconoscere. C'è chi la divora tra le chiacchiere, viene d'ansia, propongo più noia, meno mirabilandia per l'infanzia. Per evitarla il film finisce, ed è per noia che tra materne angosce, all'ombra dei tuoi cosci, c'è toccato noia.